2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 25-26 settembre 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. In questo modo, abbonandovi gratuitamente a questo servizio, potrete scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Oggi parleremo di 3D anche per fare chiarezza su un fenomeno che potremmo definire una vera e propria mania, non tanto dalla parte dei consumatori, ma sicuramente dalla parte dei produttori. Saluto il nostro esperto di audio e video digitale, Gianfranco Giardina. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ricordiamo che Gianfranco Giardina guida una redazione che si occupa di tecnologia a 360 gradi su dday.it, il magazine online dedicato alla tecnologia. Dicevamo qualche settimana fa, in occasione dell'IFA di Berlino, e questo è forse un punto dal quale partire, che in effetti tutti i produttori di tecnologia in qualche modo puntano sul 3D, forse più per un effetto marketing, perché questa è una novità, anche se forse non sarà una novità rivoluzionaria così come lo è stata, ma lo è ancora e lo sarà l'HD, cioè l'alta definizione. Beh, l'alta definizione è sicuramente più fruibile da tutti immediatamente, basta avere un segnale HD, un TV HD. Per i segnali 3D abbiamo imparato a capire che servono dei contenuti che siano tridimensionali, e non sono tantissimi ancora, anzi diciamo sono molto pochi, e poi la visione, che è condizionata al fatto di indossare degli occhialini che in alcuni casi sono anche molto costosi, quindi questo complica un po' le cose. Sembra più sicuramente una rivoluzione a TV tridimensionale, ma destinata a un pubblico forse un pochino più contenuto di quello che è l'alta definizione, che riguarda tutti già oggi. Sì, perché diciamo che nel giro di poco tempo tutti i contenuti saranno in alta definizione, cioè si passerà da uno standard che viene definito standard definition oggi all'alta definizione. Beh, diciamo che qualsiasi emittente televisiva dovesse comprare oggi una videocamera per allestire uno studio non troverebbe in gamma se non delle videocamere in alta definizione. I banchi regia sono tutti in alta definizione, cioè tutta la catena produttiva è già in alta definizione, quindi quello è un destino assolutamente certo. Tutte le trasmissioni, tutti i contenuti, credo neanche tanto tempo, saranno praticamente tutti prodotti e quindi poi anche diffusi in alta definizione. Non la stessa cosa potremmo dire per il 3D, mai ci saranno tutti i contenuti in 3D, anche perché è molto laborioso produrli e quindi sicuramente anche molto costoso, sicuramente non si può fare. E mentre sicuramente ci saranno, come già accade al cinema, molti film in 3D. Oggi parleremo anche, potremmo dire, a grande richiesta, visto che molti ascoltatori ci hanno scritto nelle scorse settimane alcune email sentendo dire o leggendo su alcuni quotidiani, alcune riviste, che esiste anche o esisterà a breve la possibilità di vedere contenuti in 3D senza gli occhialini, che noi continuiamo a ripetere invece sono necessari. Allora cercheremo anche di chiarire che cos'è questa, mettiamola tra virgolette, però mezza bufala. Diciamo anche una cosa, che così come i film in definizione standard possono essere riprodotti anche in alta definizione, si può fare la stessa cosa col 3D? Ma alcuni di questi film, e anche alcuni diciamo anche recentissimi, sono stati in realtà convertiti in 3D in post-produzione, cioè non sono stati girati in 3D come per esempio è accaduto per Avatar, che è un lavoro molto complesso, ma sono stati il segnale 3D, diciamo così, è stato ricavato con dei procedimenti elettronici e anche molto manuali dal master bidimensionale 2D, il che dà un effetto sicuramente tridimensionale, ma a seconda della bravura dell'operatore può essere più o meno naturale. Sicuramente non è un 3D vero. Cosa diversa e molto diversa è per i film in animazione in computer graphics, dove fatto il master 2D si può semplicemente dire al computer che contiene tutti i dati, i modelli 3D di tutti i personaggi, di avere in output anche la versione 3D. Per esempio, qualsiasi film della Pixar piuttosto che i film di DreamWorks potrebbero riuscire adesso in 3D semplicemente riprendendo gli stessi modelli e rielaborando, chiedendo alla macchina di tirar fuori il master 3D, proprio sì, per come funziona il 3D. Penso che sia un processo complicato anche per i registi. Adesso noi non parliamo di cinema, parliamo di tecnologia, però so che Cameron con Avatar aveva una macchina complicatissima per vedere in tempo reale il risultato finale, perché un conto è girare un film dove io vedo una scena e so che quella poi è la scena che si vedrà sullo schermo del cinema. Col 3D no, perché io vedo una roba che poi non è la stessa identica che viene. Le complicazioni sono di due ordini: uno, sempre tecnici ovviamente, uno, per riprendere servono due cineprese o due videocamere, perché l'effetto 3D viene ricostruito proprio con due punti di visione, lo stesso effetto che noi abbiamo guardando con i due occhi contemporaneamente. Quindi servono due videocamere che abbiano una distanza tra di loro, tra gli obiettivi, di circa 8-10 cm, il che normalmente non è neanche compatibile con gli spazi di queste videocamere, che occupano un pochino più spazio. Quindi c'è tutto un complesso gioco di specchi con una videocamera in orizzontale e una in verticale per avere questo disassamento di pochi centimetri. E poi la produzione sul campo, sul set, deve prevedere il sistema di acquisizione di questo doppio segnale, di gestione dello sdoppiamento 3D e di visualizzazione sul campo, per cui bisogna portarsi dietro fondamentalmente un camion regia 3D che è molto complicato, che con dei tecnici solo per il 3D che facciano questa operazione in tempo reale e permettano al regista di vedere la scena in 3D. Senza contare che cambia il modo di girare il film, proprio per dei limiti tecnici delle macchine. Le zoomate sono quasi impossibili o molto complicate, quindi perché dovrebbero muoversi i due obiettivi in perfetto sincrono, e questo ancora non si riesce a fare in maniera adeguata, quindi bisogna lavorare molto su delle carrellate per avere come dire, dei movimenti di macchina, non si può contare sullo zoom. E allo stesso modo, proprio perché questo meccanismo con le due videocamere messe con questi specchi è comunque molto grosso e molto complicato, un cambio ottica, ci diceva un regista proprio in questi giorni, un cambio ottica, che è una cosa che al cinema si fa girando i film, si fa correntemente per fare una scena sullo stesso set, un'altra scena quindi sullo stesso set, cosa, diventa un incubo, vuol dire fermare tutta la troupe per due ore perché bisogna smontare. Quindi tutto questo ci dice insomma che effettivamente la rivoluzione non ci sarà, così come per l'HD. Tuttavia, visto che molti ascoltatori giustamente ci fanno domande, ci chiedono che cosa sta succedendo, eccetera, eccetera, parliamo anche di disponibilità nei negozi di prodotti per vedere questi film o anche programmi televisivi, perché forse oggi ancora non ci sono, ma ci sarà anche l'emissione di film. Le emittenti anche italiane si stanno attrezzando per avere nella propria offerta, parliamo esclusivamente di PTV, per avere nella propria offerta dei contenuti 3D, perché ovviamente in questo momento possiamo dire siamo immersi in una vera e propria 3D mania. Parliamo solo di film o di prodotti registrati o anche di trasmissioni in diretta? Si possono fare anche delle trasmissioni in diretta. Un esempio è stato proprio all'IFA di Berlino, la fiera di Berlino. Sony ha voluto dare una dimostrazione di forza facendo la propria conferenza stampa completamente ripresa in diretta in 3D e ritrasmessa su uno schermo nella stessa sala, e tutti con gli occhialini potevano vedere la scena dal vivo, perché eravamo tutti lì, sì, e rivederla sullo schermo in tempo reale in 3D. Stiamo parlando di 3D in questa puntata di 2024, e con noi Gianfranco Giardini, il nostro esperto di audio e video digitale. Dunque, allora, Gianfranco, che cosa è necessario, che cosa dobbiamo avere in casa per poter godere di questi film o in futuro anche di queste trasmissioni tridimensionali? Beh, forse facciamo due parole prima su come viene costruita qualsiasi, sì, visione 3D, sia da quella naturale che noi abbiamo in poi. Viene costruita, come dicevamo, col fatto che abbiamo due occhi, quindi due punti di vista molto vicini tra di loro, ma un pochino differenti. Questa differenza del punto di visione permette al nostro cervello di unire le due immagini. Noi non vediamo doppio, evidentemente vediamo un'immagine sola, ma la vediamo con questo effetto tridimensionale, cioè il nostro cervello ricostruisce da queste due immagini un effetto di profondità, perché gli oggetti che sono più vicini noi li vedremo sotto due punti di vista molto differenti, cioè uno da destra e l'altro da sinistra, tanto per intenderci, mentre il cielo, il sole, il panorama lontano, tutti e due occhi lo vedranno in maniera assolutamente similare. Mettendo insieme queste formazioni, questi sfalsamenti, il nostro cervello è in grado di dire che il microfono che io ho davanti in questo momento è molto vicino a me, e mentre quella parete sullo sfondo è più lontano. E quindi è l'effetto 3D che noi abbiamo tutti i giorni e che ci permette di dare profondità alla nostra visione. Per avere un stesso effetto con una ricostruzione, per esempio con un TV, io ho bisogno che l'occhio destro veda un qualche cosa di simile ma leggermente diverso da quello che vede l'occhio sinistro. Per fare questo ci sono diversi modi, tanti modi. A seconda della modalità ho una resa che può essere più o meno credibile, più o meno bella. La maniera più utilizzata, più semplice al cinema è quella di avere degli occhialini. Questi occhialini con due metodi, un metodo attivo, un metodo passivo, poi magari spieghiamo in poche parole semplicemente che cosa significa, fanno vedere all'occhio destro soltanto un messaggio che va all'occhio destro e all'occhio sinistro soltanto un messaggio che va all'occhio sinistro. Evidentemente sono due messaggi molto simili che il cervello può sovrapporre. Se vedessimo due trasmissioni completamente diverse non ci capiremmo nulla, verremmo tutto doppio, sì, confuso. Invece così vediamo bene, non solo vediamo bene, vediamo così bene che si ricostruisce l'effetto tridimensionale, tanto, sì, che quando si va al cinema, soprattutto se lo schermo è molto grande e qualcosa ci viene incontro, si vede proprio il pubblico scansarsi, cioè proprio l'effetto tridimensionale è molto forte, molto spiccato, e questo sicuramente piace, tanto che i filmmaker americani ormai in questo momento dicono: se non hai un film buono da fare, beh, non ti preoccupare, fallo 3D. Quindi questo ci metti qualche treno che sbuca dalla galleria, sì, insomma, questo basta, avanza per emozionare le persone. Non durerà questo effetto, evidentemente, quando tutti avremo imparato a apprezzare il 3D, saremo abituati, non basteranno più gli effetti speciali. Sì, mi piace, sì, ricordare una cosa che tu stesso, Gianfranco, hai ricordato qualche mese fa. Tu facevi il paragone con l'audio multicanale, cioè, sì, quando i primi anni del 5+1, del 7+1 addirittura, molti film, se non tutti, avevano parecchi effetti, e quindi tu ti accorgevi veramente di essere immerso in una sala da dove arrivavano i suoni, da dietro, da destra, da sinistra, eccetera, eccetera. Oggi quasi non ce ne accorgiamo. Sì, ci sono stati infatti dei casi nel mondo dell'home video che sono stati esemplari, perché di film che erano andati malissimo nelle sale, in realtà poi in un video col DVD andavano benissimo, e gli esperti di marketing non capivano il perché, salvo poi capire che semplicemente quel tal film, che era magari un film artisticamente non così interessante, che nelle sale tutto sommato veniva trascurato, diventava un must per tutti gli appassionati di effetti speciali, di rumore, perché c'era quella scena al sesto minuto, al dodicesimo minuto, che valeva tutto l'acquisto del disco, ma tutto iniziava e finiva lì. È un effetto che c'è stato, certi titoli sono venduti benissimo anche se alla fine in sala andavano male, ma poi è finito, e quindi mi aspetto che anche l'effetto magico del 3D al cinema prima o poi finisca. Senti, brevemente queste due tecnologie, cioè gli occhialini, sì, come funzionano? Ecco, allora, praticamente su un contenuto 3D io devo avere i due segnali, e quindi normalmente una doppia occupazione di spazio. Vengono visualizzati i fotogrammi in maniera sequenziale, quindi lo stesso fotogramma, tanto per intenderci, nel tempo, il primo fotogramma del primo secondo del film ce l'ho in versione occhio destro e in versione occhio sinistro, e vengono visualizzati sequenzialmente, prima quello dell'occhio destro, poi quello dell'occhio sinistro, e così via. L'occhiale cosa deve fare? Deve chiudermi l'occhio destro quando devo vedere il fotogramma dell'occhio sinistro, e chiude l'occhio sinistro quando devo vedere quello dell'occhio destro. Chiaramente lo fa a una velocità tale per cui il mio occhio non si accorge che c'è questo effetto di shutter, quindi di otturatore. Apri, chiudi, non si accorge, e il mio occhio destro vede il messaggio dell'occhio destro e così via. Chiaramente cosa vuol dire questo? Che stiamo parlando degli occhialini attivi in questo caso. Cioè attivi vuol dire che c'hanno una batteria che funziona. Hanno una batteria che funziona, vanno accesi, perché hanno proprio questo effetto tendina che mi chiude un occhio alternativamente. Ecco, questo significa ovviamente che la sincronia tra il TV e l'occhiale deve essere perfetta, perché basta che sia soltanto l'occhiale leggermente lento, in ritardo, o il pannello a sua volta non sia così veloce, tutto, certo, che tutta questa visione tridimensionale, c'è, cioè, quello che viene chiamato crosstalk, cioè io vedo con l'occhio destro un pochino del messaggio dell'occhio sinistro, quindi vedo dei leggeri sdoppiamenti, sì, che non sono ammissibili. Ma questo apri chiudi, c'è proprio fisicamente si chiude l'occhiale? È, o c'è un, È come avere un piccolo pannellino LCD sull'occhiale, ah, che quindi diventa opaco o diventa trasparente, opaco trasparente velocissimamente. Questo è in perfetto sincrono col TV. E questa è la tecnologia normalmente utilizzata sui TV e utilizzata anche in alcune sale cinematografiche. Quindi l'occhiale è un apparecchio con due display LCD monocromatici, ovviamente. Ok, chiarissimo. E quindi è un apparecchio complesso. Che costa un sacco di soldi, più di 100 euro se non sbaglio, giusto? Intorno ai 100 euro, ogni occhiale. La tecnologia passiva invece si basa su un principio che è leggermente diverso, è quello di avere degli occhiali semplicemente con dei filtri polarizzati. In caso di proiezione, cioè quindi quello che succede al cinema, un fotogramma viene proiettato con una polarizzazione di un certo tipo e l'altro fotogramma con un'altra polarizzazione, proprio dal proiettore. Quindi basta avere questi filtri che filtrano la luce e senza bisogno di nessun otturatore, niente. Sì, questo è un principio fisico, diciamo. Un filtro che costa, pochissimo. Cioè l'occhiale può costare un euro, ecco, una cosa però di questo tipo. Il risultato finale è più scadente, immagino. No, il risultato finale per la proiezione non è più scadente, è più complesso il proiettore, perché è un proiettore, in alcuni casi sono addirittura un proiettore che ne contiene due, di fatto. Quindi sono due proiettori, uno che proietta con una polarizzazione e l'altro che proietta con un'altra polarizzazione, oppure un proiettore solo che è molto più complesso. Cosa che non si può fare con la TV. Perché... Con la TV si può fare comunque, però significa avere dei filtri polarizzati davanti ai pixel, quindi avere una riga polarizzata in una certa maniera e la riga subito sotto del display polarizzata nella maniera andiamo opposta. Andiamo troppo sul difficile. E il risultato qual è? Che si vede comunque molto bene, ma a mezza risoluzione, non full HD, perché io non vedo tutti i fotogrammi interi. Quindi, se capisco bene, si sta scegliendo per le TV la tecnologia attiva. Cioè io devo allora, in questo momento la tecnologia utilizzata sui TV è attiva, però si vedono già insomma qualche difetto, perché per avere il full HD anche sul 3D, e quindi la piena alta risoluzione, si porta la complicazione di avere occhiali che costano 100 euro insieme ai TV, cioè un occhiale, in alcuni casi due in dotazione, ma se già una famiglia di quattro persone vuole vedere in 3D deve sapere già che deve acquistare altri due occhiali. Non a caso alcuni produttori, per esempio LG, che ha un TV in questo momento in gamma con gli occhiali passivi, ha anticipato il fatto che nel corso di questa stagione 2010-2011 passerà circa metà della sua gamma in modalità occhiali passivi. Quindi perché? Perché semplicemente il ragionamento è dare con il TV 3D 10-15 occhiali, è una cosa che si può assolutamente fare, quindi posso invitare gli amici, i parenti, tutti quelli che voglio, e vedo, vedo a una risoluzione dimezzata, ma forse questo è un limite che è accettato e accettabile dalla stragrande maggioranza degli utenti. Cioè che è incredibile, ti do il 3D ma non ad alta definizione. Però d'altronde si evita il limite anche della sincronia, che potrebbe essere imperfetta. Certo. In quel caso gli sdoppiamenti scompaiono. Questi occhialini attivi sono collegati con quale tecnologia alla TV? Il TV 3D, che ricordiamo devono essere proprio TV 3D pensati per questo scopo, hanno all'interno o in alcuni casi all'esterno, ma comunque generalmente all'interno, un emettitore a infrarossi apposito che dà proprio il clock, la sincronia agli occhiali, e gli occhiali ricevono questo segnale. Chiaramente questo vuol dire ovviamente che ci deve esserci continuità ottica tra l'occhiale e il TV, ma ci deve essere per forza, se no non vedremo il TV. Sempre per dire che questa mania si sgonfierà nel corso dei prossimi mesi o forse anni, anche perché, certo, se si diffondono gli occhiali passivi ci può essere qualche speranza, però se invece molti produttori continueranno, anche per dare l'alta definizione piena, sulla strada degli occhialini attivi, ricordiamo che questi occhialini, l'abbiamo detto, costano un sacco di soldi e soprattutto non sono compatibili, non so se ci sono notizie nuove rispetto allo scorso anno, non sono compatibili gli uni con gli altri. Cioè se io compro una TV del produttore Giardina e vado e poi decido di andare a casa di un mio amico e c'ha la TV Pagliarini, i miei occhialini non funzionano su quella TV. Quindi, questo è assolutamente confermato. Non solo, cioè, chi aveva annunciato degli occhiali universali, quindi che costavano intorno ai 150 euro e permettono di avere una visione appunto con TV diversi, però il problema è che ogni TV ha il suo alla sua modalità, è veramente il suo clock, i suoi tempi per non avere, a seconda del pannello, follia, per non avere. Sì, sì. E quindi poi alla fine uno spende di più, ma l'occhiale è universale, ma probabilmente non funziona bene come gli occhiali originali. E quindi tanto vale, torniamo un po' all'inizio. Se uno prende un TV Samsung avrà bisogno degli occhiali Samsung, se uno prende il TV Philips di quelli Philips, e sicuramente non puoi dire a un amico, beh, vediamoci a casa mia a vedere il film 3D, ognuno porta i suoi occhiali e ci divertiamo, sì, tutti insieme. No, bisognerebbe avere la stessa marca di, sì, sì, di, sì, TV. A questo punto uno potrebbe dire, ma sono state annunciate TV che non richiedono l'utilizzo degli occhialini. Riprende 2024, seguiteci nel pomeriggio del sabato su Radio 24, andiamo in onda tra le 16 e le 17, ma come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo avete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Stiamo parlando di 3D e con noi Gianfranco Giardina, il nostro esperto di audio e video digitale, un tema che, Gianfranco, voi su dday.it trattate molto, e abbiamo detto di tutte le complicazioni del 3D, anche di questo problema degli occhialini che non sono compatibili gli uni con gli altri, che in alcuni casi sono attivi e quindi richiedono una batteria, insomma è un mondo un po' complicato. Allora, a questo punto uno potrebbe dire, beh, sono state annunciate TV che non richiedono l'uso degli occhialini, che restituiscono questo effetto tridimensionale senza gli occhialini. Tra l'altro ricordo che Nintendo questa settimana, la prossima settimana, il 29 settembre, farà una conferenza stampa in cui annuncerà, è certo, quasi certo, che annuncerà e parlerà della nuova console, la Nintendo DS, e anche in questo caso senza occhialini. Senza occhialini, no. Cosiddetti display chiamati autostereoscopici, proprio per questo. Beh, torniamo a quello che dicevamo prima. L'unico modo che l'uomo ha per vedere in maniera tridimensionale è avere due visioni differenti, con l'occhio destro e con l'occhio sinistro. E quindi questo bisogna ricreare, con o senza occhialini. E come si fa a ricreare una situazione simile con un display piatto, unico, no? Ma senza gli occhialini? Beh, chi si ricorda magari quelle cartoline, no, che inclinate leggermente si vedeva la donnina magari vestita e poi in costume da bagno, che andavano negli anni 50, agli anni 60. Ecco, più o meno la logica è quella. Devono essere dei display che, visti sotto due angoli leggermente diversi, offrono una visione diversa. All'occhio destro e all'occhio sinistro, no, in realtà giocano sul fatto che c'è la distanza tra gli occhi, quindi siccome gli occhi vedono il TV sotto due angoli leggermente diversi, se il TV ha delle lenti ottimizzate per proiettare, permettetemi il termine anche se è un'imprecisione, ma l'immagine verso un occhio un'immagine di un certo tipo e verso l'altro occhio un'immagine di un altro tipo, ecco che posso ottenere questo scopo. Questo, per esempio, si era visto già tanti anni che si vedono alle fiere TV prototipi, prototipissimi, proprio proprio agli stadi primordiali di questo tipo. Addirittura si era ipotizzato usare tecnologie di questo tipo per accontentare marito e moglie che volessero vedere due programmi diversi sullo stesso TV. Ovviamente uno stando sulla destra, l'altro stando sulla sinistra, potevano vedere sullo stesso certo, display due programmi diversi, uno in cuffia chiaramente, l'altro invece ascoltando, sì, nella oppure stanza, tutte e due in cuffia, insomma. Comunque Sharp, certo, aveva sì, presentato sì, un prototipo di questo Sharp tipo. Senti. Quindi la logica qual è? Quella di avere queste lenti davanti al pannello, innestate sul pannello, che permettono questa doppia visione. Difetto fondamentale: funzionano solo e soltanto se sono in posizioni assolutamente definite e al centro. Devo star fermo. Allora, nei primi modelli c'era un punto, una X segnata per terra, bisognava mettersi lì per sperare di agganciare la visione tridimensionale, se no si vedeva doppio o se no si vedeva semplicemente singolo, e sicuramente una situazione non accettabile. Sui TV che sono stati mostrati adesso, ecco, si dice ecco, grande evoluzione dei TV autostereoscopici. Perché? Perché gli angoli di visione ottimizzati sono stati di più, quindi anche spostandosi sull'angolo divano, orizzontale, diciamo, sì, ci sono dei punti dove io riesco a riagganciare il 3D, ma attenzione, sono dei punti che funzionano soltanto comunque a una certa distanza e soltanto in quei punti. Se per caso, magari muovendomi sul divano, sposto la testa di 3 cm, 5 cm più a destra, ecco che la mia visione tridimensionale collassa, scompare o addirittura vedo doppio e si confonde. Quindi può andar bene, può andar bene in realtà la visione autostereoscopica in due condizioni. Una può essere quella dei negozi, delle vetrine, quindi se io metto un TV di quel tipo in una vetrina, chiaramente il cliente per un attimo si mette lì e vede una scena tridimensionale, può essere piacevole. E quindi sicuramente il cosiddetto mercato del digital signage è molto interessato a questo tipo di prodotti. L'altro sistema è quando io posso garantire la posizione dello spettatore rispetto allo schermo. Quindi deve essere una posizione a distanza data e possibilmente centrata. Per esempio le console da gioco. Ed ecco che arriviamo alla proposta di Nintendo. Nintendo cosa dice? Io metto il display autostereoscopio sulla mia DS, che si chiama appunto 3DS, quindi la console da gioco portatile. Ma dice l'avevano già. Sì, infatti. Che viene di fatto guardata a una distanza che sono 20-25 cm sempre. In centro, perché nessuno gioca alla console tenendosela di fianco, tutti ce l'avranno in centro, e quindi l'effetto tridimensionale si riesce a ricostruire. Va detto però una cosa fondamentale, che l'effetto 3D è tanto più spettacolare e piacevole quanto più grande è lo schermo, perché ovviamente il coinvolgimento cambia completamente. Un qualche cosa che diciamo tridimensionale esce da uno schermo di un paio di pollici o tre pollici, sì, è tridimensionale, ma non sarà mai tanto coinvolgente. Certo. Ecco, e quindi da questo punto di vista anche questo tipo di applicazioni, sì, è 3D, però io penso, ma è un mio giudizio personale ovviamente, che alla fine il gioco sia molto più confortevole in 2D tradizionale che in 3D. Tra l'altro i display autostereoscopici hanno un altro limite, che è un limite di risoluzione. Avendo diciamo questo gioco di lenti per cui io devo vedere un pixel, praticamente lo devo vedere se lo vedo con l'occhio destro e l'altro pixel lo devo vedere con l'occhio sinistro, e quindi si dimezza, se va bene si dimezza la risoluzione, perché se poi lo voglio ottimizzare per tanti angoli come alcuni TV che si sono visti, la risoluzione di un TV magari full HD o doppio full HD diventa una risoluzione PAL, e quindi insomma siamo ancora molto lontani. Io invito a avere un po' di sano scetticismo nei confronti dei titoloni che vedo magari su un po' di stampa generalista, che dice sì, adesso arriva il 3D con gli occhialini, ma nasce morto perché il 3D del futuro è senza occhiali. Io il 3D del futuro senza occhiali, che si veda bene, finché non lo vedo, giuro, non ci credo. Grazie, a presto. Grazie mille. Come sapete, in queste prime puntate della nuova stagione di 2024 vogliamo toccare anche alcuni temi che sono stati dibattuti in rete durante l'estate, alcuni soprattutto negli Stati Uniti, dove il lavoro non si ferma, mentre in Italia ci siamo un po' distratti. Sono successe alcune cose, ad esempio una proposta lanciata in pieno agosto da due colossi che in qualche modo fanno parte di internet, ma arrivano ad internet per strade diverse. Parliamo di Google, che tutti conoscono, e Verizon, che forse poche persone conoscono. In Italia è una grande società, forse la più grande, una delle più grandi al mondo, sicuramente la più grande negli Stati Uniti. Si occupa di telefonia fissa e telefonia mobile, un po' una telecom americana. Google e Verizon si sono messi assieme al tavolino, hanno scritto una proposta e l'hanno presentata al Congresso degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è in atto un dibattito anche all'interno del Congresso per trovare nuove regole per internet. Questo detto in modo molto semplice. Che cosa dice questa proposta e perché a noi può interessare almeno in parte questa proposta lanciata da Google e Verizon? Ne vogliamo parlare con Juan Carlos De Martin, che è docente al Politecnico di Torino ed è co-direttore del centro Nexa, che si occupa di internet e società. Insomma, potremmo dire uno studioso e anche un appassionato da parecchi anni della rete internet. Bentornato a 2024. Grazie molte. Partiamo da questa proposta che è stata lanciata. Tra l'altro, quando si parla di proposte che vengono presentate al mondo politico, uno potrebbe pensare che ci siano pagine e pagine e pagine di dettagli, invece questa è una proposta molto semplice di un paio di pagine, una cosa del genere. Sostanzialmente che cosa dicono? Allora, diciamo che il tema, poi cerchiamo anche di capire di che cosa stiamo parlando, il tema è quello della neutralità della rete, ma Google e Verizon che cosa propongono al Congresso degli Stati Uniti? Propongono una serie di punti, non soltanto al Congresso ma in generale alla pubblica opinione, in maniera molto divulgativa, alcuni punti che in generale riaffermano il concetto di una internet aperta, ma che in due punti particolari, che sono quelli che hanno sollevato l'attenzione in realtà in tutto il mondo durante il mese d'agosto e ancora fino adesso, in due punti particolari chiedono congiuntamente queste due aziende così diverse tra loro, una ex discendente diretta dell'AT&T, del colosso telefonico, e l'altra la classica azienda internet, chiedono di fare un'eccezione sulla neutralità della rete, che tra un secondo definiremo, un'eccezione in due ambiti molto importanti: l'accesso a internet via wireless, e sappiamo tutti quanto questo stia diventando centrale, e un'ipotetica altra rete, una specie di internet 2, dove non varrebbero queste regole per consentire tutta una serie di attività, principalmente di fornitura di servizi ad alta qualità di servizio o qualità di servizio garantita. Allora, queste due cose, la prima escludere l'accesso a internet wireless, e la seconda un'ipotetica internet che va in parallelo, non si capisce come, non si capisce con quali regole, all'internet esistente, hanno sollevato, benché siano poche parole, una grandissima discussione a livello internazionale. Quando parliamo di accesso ad internet wireless, parliamo sostanzialmente di accesso ad internet tramite la telefonia mobile, tramite il nostro smartphone, parliamo anche di un mondo in forte crescita che, secondo tutti gli esperti, sarà la principale via per accedere e utilizzare i contenuti della rete internet nel prossimo futuro. Già oggi ci siamo vicini, nel prossimo futuro questo sarà il modo principale, sia nei paesi evoluti sia nei paesi in via di sviluppo. Ultima parte di 2024, stiamo parlando della proposta lanciata da Google e da Verizon negli Stati Uniti, che secondo alcuni esperti potrebbe toccare un principio su cui si fonda internet, ovvero la neutralità della rete. Ne stiamo parlando con Juan Carlos De Martin, che è docente al Politecnico di Torino. Allora, diciamo proprio in che cosa consiste e che cos'è la neutralità della rete e perché è importante. Stiamo parlando del fatto che fino a questo momento, per accedere e navigare in rete o per fare qualunque attività in rete, noi giustamente paghiamo una società, un internet service provider, per poter accedere. Dopodiché, una volta che siamo in rete, siamo un nodo della rete, possiamo raggiungere qualunque altro nodo. Alcuni nodi saranno più lontani, ci metteremo di più, ma altri saranno più vicini, ma sostanzialmente paghiamo per accedere alla rete, più eventuali altri servizi aggiuntivi che ci interessano, ma questo è un altro discorso. Invece alcuni, per non dire tutti, ma alcuni importanti, influenti fornitori di accesso a internet vorrebbero far pagare una seconda volta, cioè vorrebbero, oltre a far pagare i propri clienti per accedere, che è normale, vorrebbero far pagare chi fornisce servizi online per raggiungere i propri clienti, cioè sono il service provider X o i miei clienti, tanti o pochi che siano, e io potrei dire a Google, a Facebook, al sole24ore.com, potrei dire: vuoi raggiungere i miei clienti? Devi pagarmi una certa tassa. E potrei anche eventualmente dire a un altro giornale concorrente: questo servizio, questa offerta non te la do. Quindi in qualche modo diventare dei guardiani al portone, che fanno entrare chi vogliono e fanno pagare il balzello che desiderano. Ricordiamo che la stessa Telecom Italia, per voce dell'amministratore delegato, più volte, ma io ricordo di aver sentito con le mie orecchie Bernabé dire: non capisco perché ci sono colossi in rete che, grazie ai nostri collegamenti, grazie a noi che portiamo internet in giro per l'Italia, fanno un sacco di soldi. Perché in linea di principio questo approccio non va bene, secondo, diciamo, molti esperti, direi la maggior parte degli esperti che si occupano di internet? Quali sono i rischi di un approccio del genere? Ma quello che si omette di dire in questi casi è che i colossi sono americani, ma potremmo anche averne in Italia, fossimo più intraprendenti. I colossi pagano moltissimo in proporzione al traffico sostanzialmente per accedere alla rete. Quindi Google negli Stati Uniti, ovunque voglia creare del traffico, paga qualcuno, qualche collega di Telecom Italia, qualche azienda simile a Telecom Italia. Quindi, paga già. Paga già per accedere. Quello che vorrebbero aggiungere, in questo caso l'azienda che hai citato, sarebbe e paghi anche per raggiungere i clienti italiani. Allora immaginiamoci questo cosa significa, per esempio, non tanto per Google che ha avvocati e tasche profonde e potrebbe anche mettersi a negoziare con tutti gli internet service provider principali al mondo, ma immaginiamoci una startup. Allora questa startup oggi deve comprarsi un accesso a DSL e gli costa quello che sappiamo, dopodiché non deve preoccuparsi di raggiungere i clienti in America Latina, in Nord America, in Svezia, contattando i rispettivi internet service provider. Quello che basta è accedere alla rete e a quel punto è raggiungibile da chiunque. Certo, quindi pensiamo ad esempio a una piccola azienda italiana che vuole vendere i prodotti italiani in tutto il mondo facendo commercio elettronico tipo. Esatto, il rischio è che in un futuro in cui se questa linea passasse, questa azienda nel suo business plan dovrebbe aggiungere assumere intermediario per contrattare i primi 50 internet service provider al mondo, perché altrimenti rischio che la mia pagina e i miei servizi arrivino in maniera estremamente rallentata o addirittura non arrivino affatto. Allora questo, chiediamoci che impatto avrebbe sull'innovazione in rete. Abbiamo tutti detto che bella l'innovazione, che bello la rete che fornisce una possibilità a tutti di entrare a un costo relativamente basso, basta avere una buona idea. Immaginiamoci cosa vorrebbe dire aggiungere questo livello di negoziazioni in giro per il mondo per poter arrivare agli utenti. Ho letto, forse tu stesso Juan Carlos avevi scritto di un esempio, giusto per far capire uno dei rischi che possiamo correre, è un po' come se in autostrada il gestore dell'autostrada si mettesse a dire vabbè, da domani le macchine di colore rosso oppure le macchine più di cilindrata superiore a XY pagano di più oppure addirittura vanno su una corsia e vanno più lente, non possono superare i 100 km all'ora. Sì, è proprio come se un'infrastruttura come le autostrade, che giustamente si fanno pagare per poter accedere, volessero anche dire adesso apriamo tutti quanti i bagagliai e chi trasporta diamanti ci deve dare un'altissima tassa perché sta facendo un grande reddito trasportando diamanti, oppure che tutti quelli che portano i libri di un certo editore prego si accomodino su una linea ad alta velocità perché abbiamo un accordo con quell'editore e tutti quelli che trasportano i libri degli altri editori rimangano nelle corsie affollate insieme a tutti gli altri. Ecco, accetteremo una capacità di discriminare di questo tipo? Sì. Ovviamente no. Ecco, sulla rete invece qualcuno lo propone. Diciamo che a questo punto il tema si lega anche, ma lo accenniamo solamente, al controllo in rete laddove ci sono degli illeciti, perché gli internet service provider continuano a dire e in qualche modo si contraddicono, se pensiamo a quello che stanno invece pensando in questo ambito di business, dicono se c'è un illecito in rete ci deve pensare alla polizia e non vogliamo essere coinvolti. Sono due cose che non... Giusto, sono assolutamente d'accordo con questa apparente contraddizione, che c'è un ulteriore pericolo, che quindi se gli internet service provider dimostrano di avere la capacità tecnica di guardare nei bagagliai e vedere cosa c'è all'interno, contemporaneamente diventerà impossibile per loro fare come hanno fatto fino adesso, cioè dire noi non c'entriamo, stiamo semplicemente offrendo accesso all'autostrada. Quindi è un collegamento che è assolutamente giusto sottolineare. Ho detto che questa proposta di Google e Verizon è stata fatta, giustamente come tu sottolineavi, la pubblica opinione, ma anche al Congresso, perché si sta discutendo una possibile revisione delle regole o comunque una regolamentazione diversa per la rete internet negli Stati Uniti. Questi rischi, lo dico proprio a livello legislativo, regolamentare, ci sono anche in Europa o il dibattito è limitato agli esperti nel nostro paese o comunque nell'Unione Europea? Ma allora aggiungerei un dato di fatto, che uno degli interlocutori principali di quel documento è sicuramente la Federal Communications Commission, l'AGCOM americana, perché il suo chairman, il suo presidente, nominato dal presidente Obama, fin dall'inizio ha fatto le dichiarazioni pubbliche, anche dei documenti, molto forti a favore della neutralità della rete. Quindi il primo interlocutore è la FCC. Quindi l'autorità per le comunicazioni. Infatti l'autorità per le comunicazioni americana che da tempo preannuncia un'iniziativa sulla neutralità della rete e ormai molti cominciano a chiedersi quando arriverà il momento dell'azione. Quindi è probabile che questo documento di Google e Verizon fosse rivolto a intervenire prima che la FCC emettesse le regole che non ha ancora emesso. In Italia, come ricordavi anche tu, in realtà diversi provider chiedono a gran voce di poter fare quell'opera di discriminazione che abbiamo detto, ma c'è stata un'operazione, cioè è stato un atto del Parlamento europeo nell'approvazione della revisione di tutte le direttive che hanno a che fare con le telecomunicazioni, il cosiddetto pacchetto Telecom di qualche mese fa, è stato inserito anche del linguaggio specifico per la neutralità della rete, che secondo chi ha analizzato attentamente il linguaggio è un linguaggio abbastanza forte, non forte come avrebbero voluto alcuni, ma un linguaggio abbastanza forte che quindi vincola tutti i Paesi membri e quindi anche l'Italia a un rispetto sostanziale della neutralità della rete. Questo è un tema sul quale sicuramente sarà necessario tornare. Io ringrazio Juan Carlos De Martin, che è docente al Politecnico di Torino e, come dicevo all'inizio, co-direttore del Centro Nexa che si occupa di Internet e società. Buon lavoro, a presto. Grazie molte. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che anche questa edizione del nostro programma sarà disponibile sul nostro sito internet. Vi consiglio sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo avrete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ai nostri tecnici, grazie ad Anita Panizza in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete scriverci per qualsiasi ragione, 2024, quindi 2024, @radio24.it. Torniamo sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17. Un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.